Ecco, mi piacerebbe anche che qualcuno di voi potesse magari fare qualche domanda a Pinorato per capire com'è la vita di un vignaiolo, com'è la vita a contatto con la natura, con una natura sempre che cambia, sempre così diversa. Per esempio, quest'anno la vita di un vignaiolo è stata difficilissima, è stato un inferno, perché, ecco, ha cominciato a piovere quando di solito le uve cominciano a svilupparsi, quando comincia il grappolino piccolino appena fuori la fioritura, comincia a mettere i primi acini e i primi acini cominciano ad ingrandirsi. Ecco, lì è cominciato a piovere, è finito quando ormai questi acini erano ormai già diventati grossi, soltanto che nel frattempo non c'è stata luce, non c'è stato sole, non c'è stata temperatura sufficiente per far maturare queste uve. E quindi noi ci siamo trovati alla fine di agosto, i primi di settembre, con delle uve ancora molto molto acerbe. Di solito era il momento nelle quali queste uve erano già mature, già pronte per essere vendemmiate, vinificate, e quest'anno invece non avevano voglia di maturare. Il tempo è stato proprio molto molto inclemente. Soltanto le uve tardive, cioè quelle che maturano tardi, hanno potuto beneficiare del sole di settembre e di ottobre e sono quindi state vendemmiate alla fine di ottobre con buona maturazione. Ecco, Pinorato quest'anno non ha vendemmiato, non ha raccolto l'uva perché non era sufficientemente matura per poterla trasformare in un vino. E quindi un'annata persa, un'annata appunto sacrificata perché il tempo non è stato come avrebbe potuto o avrebbe dovuto essere, una cosa appunto, come dicevo prima, insopportabile agli occhi di Veronelli, mai avrebbe accettato una sventura di questo genere. Eppure la natura è questa, il clima a volte fa di questi capricci e ci crea molti, molti problemi, ma per fortuna questa invece è un'annata che è stata 2004, è stata un'annata molto molto buona. Il 2004 è stata un'annata molto generosa, come di solito sono generosissime le annate che vengono dopo annate troppo asciutte, annate troppo siccitose. Il 2003 è stata l'annata più calda degli ultimi 10 anni. Ricorderete forse quest'estate che non finiva mai, sempre, sempre con temperature sopra la media, non pioveva mai, quindi è stata davvero un'annata difficile perché le uve non maturavano bene, si sono un po' rinsecchite, hanno concentrato un po' il loro contenuto ma senza vera e propria maturazione. Come spesso accade, dopo queste annate arriva un inverno piovoso e quindi l'anno successivo le condizioni climatiche sono sempre favorevoli alla più ordinate, in qualche modo ci sono i momenti di pioggia, i momenti di calore, ma tutto segue in qualche modo un ritmo più opportuno, più ideale per le vigne. Quindi il 2004 è stata un'annata estremamente generosa e ricca perché ha dato una buona quantità di uva e l'ha portata a perfetta maturazione. Quindi è stata un'annata che ha in qualche modo ripagato dagli stenti del 2003. Ecco, il Dolcetto è un'uva estremamente fine, estremamente elegante, perché ha un suo modo di porsi immediato, non fa tanti giri di parole, il suo non è un racconto estremamente complicato. Arriva subito a voi perché vi dà subito un elemento di grande dolcezza, di grande elemento maturo, di frutto molto dolce, di ciliegia, di piccoli frutti di bosco, perfettamente maturi, dolci, belli carichi. Ricordano proprio un po' la sensazione che si ha quando si raccolgono le ciliegie, belle succose, belle mature, che danno questa impressione molto dolce, molto molto fragrante. E poi come elemento, come dire, quasi decorativo del dolcetto c'è questa nota floreale, questa nota di violetta che caratterizza proprio il suo modo di essere. Quindi con estrema semplicità ci dà due elementi estremamente piacevoli, estremamente godibili, perché appunto dà questa sensazione matura, di dolcezza, di frutto bello succoso e maturo e un pochettino di fiori, di questo tocco appunto di eleganza, molto molto molto immediata, molto molto molto facile da cogliere. Ecco, provate appunto ad annusarlo, cercate di appunto di sentire questi profumi, queste sfumature, e poi bevetelo cercando di bere il vino non soltanto con la bocca, con la lingua, con il palato, ma ricordandovi anche che avete il naso, e avete il naso anche quando bevete, non soltanto quando annusate, perché è poi il naso che comunque ci dà le sensazioni più ricche, più ampie, più complesse. Quindi quando avete il vino in bocca e lo state deglutendo, ricordatevi appunto di ciò che avverte il naso, perché così la sensazione gustativa sarà più completa, sarà più ampia, vi darà, come dire, una sensazione più intensa, maggiore, più ricca. Sentite appunto al gusto questa dolcezza che vi arriva in bocca, molto molto molto fragrante, molto immediata, e sentite che la bocca comincia ad animarsi, appena appena sentite sulla lingua qualche cosa che brulica, che muove, che vi dà una sensazione appunto tattile molto stuzzicante, molto piacevole. È questo tannino finissimo del dolcetto, che vi solletica la lingua, che vi dà questa sensazione molto molto piacevole e che allunga naturalmente molto la sensazione gustativa. Il gusto poi, con questo muoversi di questi sapori che si muovono in bocca, dà una sensazione di spezie molto molto molto saporite, un po' piccantine, che anche queste sollecitano continuamente la lingua, e quindi questa sensazione si fa sempre più forte, anziché diminuire questa sensazione aumenta in bocca, quindi il sapore arriva piano piano con la parte fruttata inizialmente, poi si arricchisce di queste sensazioni più speziate, più ricche, e appunto che vi fanno formicolare appena appena la lingua, il palato, e vi danno quindi una sensazione tattile molto molto ricca e che allunga molto la persistenza. Il gusto quindi tenderà a finire piano piano scenderà fino a che si annullerà del tutto, ma con molta lentezza, con molto tempo, quindi non c'è una chiusura immediata, non finisce immediatamente il sapore, ma si allunga piacevolmente in bocca. Bravo quindi a Pinoratto, grazie molte. Il vigneto, un grande vigneto questo qui, è il vigneto degli Scarsi, è la cascina nella quale Pinoratto vive, ed è il vigneto che sta proprio attorno alla casa, quindi è un vigneto che dà appunto questa immediatezza, questa ricchezza, questa come dire, questa succosità al vino molto molto molto importante. È bravo lui naturalmente a saper restituirci nel bicchiere questi caratteri, queste caratteristiche. Bene, passiamo adesso al secondo vino, al Barbera, il Barbera dei fratelli Santo Pietro. Qui c'era Carlo, che probabilmente adesso è lì allo stand per far assaggiare i suoi vini al pubblico del Leoncavallo. È una Barbera che nasce in un vigneto vicino a Vignale Monferrato. Il Barbera si chiama Guerra, con una R soltanto. È una vigna che dà un'uva estremamente concentrata, matura, molto molto ricca. L'uva matura abbastanza tardivamente, viene fatta maturare molto, perché se la Barbera non è estremamente matura tende ad essere anche molto acida, allora bisogna aspettare che l'acidità diminuisca, si abbassi un pochettino, e quindi passa un pochettino di tempo, allora molto spesso l'alcolicità sale, a volte sale anche oltre i 14 gradi alcolici, ma sentiremo che l'elemento alcolico non è così importante, non è così decisivo, perché assieme a questa alcolicità c'è questa grande ricchezza di profumi, di sapori, di elementi che danno una sensazione di pienezza, di ricchezza e di maturità. E quindi non sarà un elemento, come dire, penalizzante l'alta alcolicità. Vedremo anche come, da un punto di vista tattile, invece avremo delle sensazioni molto, molto, molto diverse, perché la barbera, pur essendo così ricca di tutti i composti che solitamente sono nel vino, è invece un po' povera di tannino, non ne ha tantissimo. Allora qui un elemento molto importante sarà appunto vedere come un po' l'acidità e un pochettino quella piccola tannicità che viene aggiunta nel corso della vinificazione riesce a creare una sensazione sufficientemente piena e rotonda e morbida. Il vino quindi, questo vino deve sempre stare almeno un anno e mezzo in piccole botti di rovere, in modo che possa trarre dal legno un po' di quel tannino che gli manca. In questo modo quindi c'è questa interazione tra il vino e il suo contenitore, c'è questo, come dire, questo matrimonio tra il contenuto e il contenitore. In questo modo il vino riesce a maturare, riesce a cogliere questi elementi dalla botte, dall'aria che attraverso essa filtra, e si arricchisce con note estremamente dolci, mature, molto ricche e molto generose. Adesso magari se il mago Gabriel riesce a dare un goccino di barbera anche a me. Prima gli ospiti. Grazie. Scusami. Perfetto.